Capitolo 8. Il cervello. Un simulatore mentale. La specie umana ha una qualità straordinaria che le altre specie non hanno, la simulazione mentale. È una capacità che dobbiamo al nostro cervello e al nostro modo di comunicare, il linguaggio, che è unico nel mondo animale. Un leone, per esempio, è incapace di immaginare il futuro. Il suo futuro è quello che rientra nel suo campo visivo. Vede un ognu, sa che gli procurerà un buon pasto e lo rincorre. La sua tecnica di caccia è il frutto di una lunga esperienza acquisita dopo una serie di errori. Anche noi impariamo attraverso l'esperienza, osservando gli altri o procedendo per errori e correzioni, per premi e punizioni. È così che un bambino impara a camminare, a parlare, a leggere o a scrivere. Ma poco alla volta, grazie al suo grande cervello, impara anche a fare una cosa che il leone non sa fare. Elaborare dei montaggi mentali con pezzi sparsi di memorie e vedere cose che non sono ancora entrate nel suo campo visivo. È ciò che chiamiamo immaginazione, quel meraviglioso processo mentale che permette di pensare, riflettere, fantasticare, prevedere e progettare. È in questo modo che possiamo proiettare nel futuro una certa situazione, farla evolvere mentalmente e immaginare vari scenari alternativi. Questi scenari immaginati a volte possono essere evocati in modo così forte da coinvolgerci persino emotivamente. Pensare al futuro e progettarlo è una delle funzioni più nobili della nostra attività mentale, proprio perché ci permette di alzare lo sguardo e di guardare oltre il nostro orizzonte ristretto. Questi montaggi di idee possono essere semplici fantasie se vengono assemblati liberamente, ma possono essere anticipazioni di eventi se costruiti con dati certi e tendenze in atto. Questa simulazione si può arricchire con varie possibili interazioni, un po' come avviene nel gioco degli scacchi, dove è importante capire come la relazione tra i vari pezzi cambi a ogni mossa. Giocando a scacchi, infatti, siamo continuamente portati a pensare al futuro, cioè a come potrà essere la situazione che si creerà sulla scacchiera dopo una nostra mossa e dopo l'eventuale contromossa dell'avversario. Non sapremo esattamente come potrà evolversi la situazione nelle mosse successive, ma sappiamo che se impostiamo male il nostro gioco, se per esempio cerchiamo di ottenere un vantaggio immediato mangiando un pezzo subito, senza tener conto delle conseguenze, rischiamo di trovarci in una posizione difficile e magari di perdere la partita. Analogamente, quando immaginiamo il futuro non possiamo vedere in anticipo come andranno veramente le cose nella realtà. Sappiamo però che se giochiamo solo sul presente per ottenere dei vantaggi immediati, comprometteremo anche qui la partita. Le previsioni non sono mai sicure, ma attraverso le simulazioni mentali abbiamo buone probabilità, perlomeno, di individuare in prospettiva i rischi di un percorso e studiare il modo per evitarli. Pensare al futuro è diventata oggi un'esigenza fondamentale, in una società in cui tutto evolve ad alta velocità. Significa guardare dove stiamo andando e quindi capire anche quale possa essere il percorso più conveniente. Perché di questo si tratta, rendere convenienti certe scelte che in una visione ristretta non lo sarebbero o risulterebbero impopolari. Proiettando in prospettiva certi problemi non ancora entrati nel campo visivo, ma già in agguato, possiamo essere più motivati ad agire. E tanto più sono numerosi e validi i pezzi per il nostro montaggio mentale, tanto più la nostra proiezione sarà attendibile e convincente. Questo vuol dire avere una visione lungimirante, centrata non solo sul breve, ma sul medio-lungo termine. È una visione che oggi manca drammaticamente alla nostra politica, che è brevimirante nell'ottica di ottenere vantaggi elettorali immediati. E per questo naviga a vista, senza alzare lo sguardo verso l'orizzonte. Ma per poter elaborare dei montaggi mentali adeguati, bisogna disporre degli strumenti giusti. Occorre quindi una cultura che comprenda bene il ruolo attuale della scienza, della tecnologia e delle sue continue interazioni con l'economia e con gli enormi cambiamenti che stanno avvenendo, in modo da riuscire a elaborare una linea d'azione che tenga conto di tutti gli elementi in gioco. Anche perché, come dicevamo prima, in passato le cose cambiavano lentamente e il futuro era veramente molto lontano. Quando si dice che il futuro non è più quello di una volta, è vero. La rete dei cervelli. Abbiamo visto finora le straordinarie qualità della nostra macchina per pensare, le sue potenzialità e anche i limiti, il ruolo dell'intelligenza, della creatività, del simulatore mentale. La domanda successiva da porsi è: ci sarà un giorno qualcosa che supererà il cervello umano, un supercervello che permetterà prestazioni di gran lunga superiori? qualcosa esiste già, l'insieme dei cervelli. Un cervello da solo, infatti, vale ben poco se non è inserito in una rete di altri cervelli. Da soli saremmo incapaci di fare qualunque cosa. Basta guardarsi intorno. Chi saprebbe costruire una lampadina o una cerniera lampo, una penna biro o anche semplicemente un foglio di carta o un bottone? Non parliamo di una bicicletta, un ascensore, un vetro e ancor meno, naturalmente, un computer. Lasciati da soli, saremmo come quel bambino lupo trovato nei boschi dell'Aveyron agli inizi dell'Ottocento, incapaci persino di padroneggiare un linguaggio. A questo si ridurrebbe il nostro meraviglioso cervello se ci trovassimo da soli. Tutto quello che vediamo è il risultato dell'azione combinata di una rete di cervelli e della loro interconnessione che avviene grazie al linguaggio. Si potrebbe dire che ogni cervello fa parte di una sterminata rete nervosa composta da miliardi di cervelli? Questa è la società ed è una rete tanto più efficiente quanto più i collegamenti e i singoli cervelli sono sviluppati e interconnessi, un po' come avviene in un singolo cervello. Uno dei problemi attuali, come sappiamo, è proprio la difficoltà di questa grande rete di adeguarsi alla velocità dei cambiamenti. Sì, perché lo sviluppo della tecnologia procede molto più rapidamente della capacità culturale di adattamento e questo crea un crescente fuorisincrono. Penso che sia fondamentale quindi porsi la domanda su come usare l'intelligenza di cui disponiamo per vivere meglio ed evitare gli effetti non desiderati dello sviluppo tecnologico. Oggi sta succedendo una cosa curiosa. Da un lato siamo stati così intelligenti da costruire macchine e computer che imitano le capacità del cervello umano in modo davvero sorprendente. Già diversi anni fa un computer riuscì a battere il campione del mondo di scacchi. Dall'altro non siamo in grado di gestire intelligentemente questi cervelli elettronici e le loro straordinarie prestazioni, al punto che le nostre economie rischiano di essere messe in crisi appunto dagli effetti collaterali delle macchine. Il cervello e le nuove tecnologie. Un primo evidente effetto collaterale è la perdita massiccia di posti di lavoro dovuta al fatto che queste tecnologie non sostituiscono ormai solo i muscoli, ma in una certa misura anche la mente umana. Il nostro cervello si trova quindi paradossalmente in competizione con le macchine che lui stesso ha creato. L'innovazione tecnologica sta galoppando anche in tanti altri campi, non soltanto in quello dei computer. Basti pensare ai nuovi materiali, con tantissimi impieghi, dall'edilizia all'abbigliamento, alle lavorazioni industriali, alla nanotecnologia applicata in numerosi ambiti, ai nuovi sistemi per immagazzinare energie, alle biotecnologie, con un profondo impatto su medicina, agricoltura, farmaci, biocarburanti, eccetera. Ma certamente la microelettronica è quella che sta facendo più sentire le sue conseguenze ovunque, nelle industrie manifatturiere, nella distribuzione, nella vendita, nei media, nelle finanze, nella ricerca, nel management, nell'editoria, nei viaggi, nel marketing e praticamente in ogni settore economico. Certo, anche in passato ci sono stati grandi cambiamenti portati dalle tecnologie. Se si guarda la storia da questo punto di vista, ci si rende conto che la creatività umana, cioè il nostro cervello, è sempre stata il grande motore del cambiamento. Ma, abbiamo già avuto modo di parlarne, specialmente nel corso degli ultimi due secoli, l'esplosione di conoscenze, invenzioni, nuove forme di energia ha cambiato radicalmente la struttura stessa delle nostre società. Il fatto è che in passato le trasformazioni avvenivano in tempi meno rapidi, consentendo un adattamento graduale. Oggi la velocità è aumentata moltissimo, troppo forse, rispetto alla nostra capacità di adattamento. La ricchezza immateriale. In questo nuovo panorama ci sono cambiamenti che svettano maggiormente rispetto ad altri. Uno è la diminuzione del costo relativo delle materie prime e della manodopera rispetto al software, cioè alla conoscenza, alla creatività. Questo sta succedendo anche in certe produzioni tradizionali, come quella di automobili, ma soprattutto per i prodotti della microelettronica, come telefonini, tablet, computer. Si è calcolato che nel costo di un computer ben il 90% sia rappresentato dal software, cioè dalle prestazioni del cervello. Quindi l'elaborazione mentale sta diventando la materia prima più preziosa. Uno studio della Banca Mondiale ha recentemente valutato che l'80% della ricchezza dei paesi più avanzati è immateriale, cioè è rappresentata dal sapere. Ed è questo che fa la vera differenza tra le nazioni. La crescente capacità di innovare sta accentuando quella che gli economisti chiamano la distruzione creativa, vale a dire l'uscita di scena di attività obsolete e l'ingresso di altre vincenti. pericolo a cui vanno incontro tante aziende che oggi appaiono solide e inattaccabili. Si pensi a quello che è successo alla Kodak, un gigante mondiale della fotografia che pareva imbattibile. In pochi anni è entrata in crisi ed è fallita. L'enorme mercato della pellicola fotografica è praticamente scomparso e la Kodak non è riuscita a restare competitiva nel nuovo mercato delle macchine fotografiche digitali. Dei piccoli cervelli creativi hanno abbattuto un colosso planetario. Per questo è così importante il ruolo di chi ha un'idea in più, un brevetto innovativo, un sistema produttivo più intelligente. Teniamo presente che solo un sistema molto efficiente è in grado di sostenere tutte quelle attività non direttamente produttive, a cominciare da quelle artistiche e culturali cui teniamo molto, ma che dipendono dalla ricchezza disponibile. La macchina cannibale. Nell'attuale panorama tecnologico si vedono moltissime nuove cose, alcune davvero straordinarie, apparecchi che traducono in qualunque lingua, imitando la voce di chi parla, auto che si guidano da sole, macchine che fanno diagnosi mediche, stampanti 3D che partendo da cellule staminali si propongono di stampare organi umani, eccetera. Ma la cosa più impressionante che ne consegue ha un nome ben conosciuto: rischio di disoccupazione. Questo perché le macchine prenderanno sempre più il posto degli uomini. Abbiamo visto come nel corso dell'ultimo secolo nei lavori agricoli siano entrate sempre più macchine che hanno ridotto verticalmente il numero dei lavoratori nei campi. La stessa cosa è avvenuta e si sta accentuando anche nell'industria, dove l'automazione ha fatto sì che negli stabilimenti sia possibile fare a meno di un numero crescente di operai a parità di prodotto. Basta visitare una grande azienda automobilistica per rendersi conto della quantità di operazioni che oggi riescono a svolgere i robot. E la nuova rivoluzione che dobbiamo attenderci avverrà in quei lavori dove le macchine, i robot, non erano ancora entrati, in particolare i lavori tipici degli impiegati. Lo si vede già negli sportelli bancari. I computer hanno diminuito il numero degli addetti. Non solo, ma sempre più clienti compiono ormai le loro operazioni direttamente in rete. Attraverso internet si può accedere a qualunque dato o informazione, superando in questo le enciclopedie. Uno studio di avvocati, per esempio, può consultare ed elaborare molto più rapidamente e con meno personale la documentazione utile per un processo. I viaggi vengono sempre più prenotati online, marginalizzando il ruolo delle agenzie. Le librerie, dal canto loro, vedono molti clienti preferire i libri elettronici, libri per i quali non esistono costi di stampa, spedizione, distribuzione. Negli Stati Uniti e non solo, molte librerie tradizionali stanno chiudendo. Le perturbazioni riguardano anche il mondo dell'informazione. I giornali stampati, in particolare, sono stati affiancati da quelli virtuali. Persino i call center cominciano a subire la concorrenza del digitale. Certi servizi sono svolti da segreterie automatiche. Ci sono addirittura programmi che scrivono brevi articoli sulla giornata in borsa o sui risultati sportivi a partire dai dati forniti. Ma un altro rivoluzionario sviluppo è quello che riguarda il commercio elettronico. Come si vede, c'è il rischio di perdita di posti di lavoro in molti settori che una volta sembravano sicuri. Uno studio, a dir la verità abbastanza controverso, dell'Università di Oxford ha previsto qualche anno fa che nel giro di una ventina d'anni quasi il 50% dei lavori potrebbe essere svolto da sistemi automatici. I nuovi posti di lavoro. Questi cambiamenti, tuttavia, creeranno anche nuovi posti di lavoro, soprattutto però nella fascia alta. Ci sarà grande richiesta di tecnici, ingegneri, creativi, specialisti, cioè di cervelli capaci di utilizzare le nuove tecnologie e di inventare applicazioni originali nel loro campo specifico. Saranno i creatori di software a essere alla base del successo di un'azienda, ma anche di un paese, e saranno proprio i paesi con la maggior concentrazione di cervelli di questo genere a risultare vincenti. Anche se molti posti di lavoro nella fascia bassa, dal giardiniere alla parrucchiera, dalla badante al cameriere, non saranno facilmente automatizzabili. Quello che sembra emergere è un rischio maggiore per i lavori della fascia media, come i bancari, che essendo più di routine si prestano maggiormente a essere automatizzati. Molti economisti ritengono che la grande efficienza generata da questo nuovo modo di produrre nella fascia alta potrà essere il volano della crescita occupazionale, con un rimbalzo di posti di lavoro e un indotto anche nelle fasce più basse. Nei paesi dove l'automazione è più avanzata, infatti, come Stati Uniti o Germania, in realtà la disoccupazione è più bassa. Si prevede inoltre che aumenterà il divario retributivo tra coloro che salgono sul carro delle nuove tecnologie e coloro che ne resteranno fuori. Per la prima volta sarà colpito da questo tipo di sviluppo il ceto medio. Tuttavia, c'è anche una versione più ottimista di questo cambiamento, che è quella classica. La moltiplicazione dei beni e dei servizi creerà una società globalmente più ricca di cui beneficeranno tutti. In realtà oggi nessuno riesce ancora a prevedere a quale tipo di evoluzione porterà questo cambiamento. Con ogni probabilità non sarà uguale in tutti i paesi, ma la preoccupazione principale riguarda proprio le conseguenze a cascata della disoccupazione. Infatti, se una persona non lavora e non ha reddito, non può essere un consumatore e neppure un contribuente. Quindi, a chi si venderanno i beni e i servizi prodotti così efficientemente? Alcuni ritengono che questa nuova situazione farà sì che chi non raggiungerà un reddito minimo riceverà, come in un sistema di vasi comunicanti, la parte di reddito mancante, un reddito sociale che possa anche sostenere i consumi. Quello che non si potrà fare comunque è pensare di poter fermare il progresso delle tecnologie o competere con esse. Come molti economisti dicono, oggi la corsa non può essere contro la macchina, ma insieme alla macchina. Per fare questo, però, occorre un livello educativo, cioè cerebrale, adeguato. Oggi non bastano poche intelligenze individuali, occorre un'intelligenza di sistema. Tanto più in una società come la nostra, dove il cervello si è ormai esteso alle macchine e in cui questo intreccio tra cervello e tecnologie, che era già cominciato con la scrittura e il calcolo, diventa sempre più fitto. Capitolo 9. Ambiente ed energia. Perché le soluzioni non sono facili. Parlando di ambiente, credo che per iniziare sarebbe bene mettere in evidenza alcuni concetti che, a mio avviso, permettono di inquadrare meglio quello che sta succedendo. Primo, se si vogliono avere trasporti, scuole, riscaldamento, reddito, vacanze, competitività, eccetera, ma al tempo stesso anche proteggere l'ambiente ed evitare crisi climatiche, occorre ovviamente ridurre i consumi, oppure utilizzare energie più pulite, o fare entrambe le cose. Secondo, un sistema economico complesso come il nostro non può certo essere privato di colpo delle energie inquinanti, carbone, petrolio, gas, per il semplice fatto che queste tre fonti insieme forniscono in Italia il 76% dell'energia che fa girare il paese, nel mondo l'84%. Di quanto si può ridurre questa dipendenza e come? Terzo, esistono molte forme di energia pulita che si stanno sviluppando. In passato la loro crescita è stata lenta, ma ora il loro contributo a livello globale sta aumentando. Quarto, il problema del cambiamento climatico, con tutte le sue conseguenze, è che l'atmosfera circola su tutto il pianeta. Non basta che alcuni paesi siano virtuosi, occorre che la somma di tutti gli inquinamenti non superi una certa soglia. Quinto, è vero che un abitante di un paese industrializzato produce moltissima più CO2 di un abitante di un paese in via di sviluppo, ma in questa contabilità pesa anche il numero dei consumatori e il tipo di energia utilizzata. E nei paesi in via di sviluppo non solo gli abitanti stanno aumentando enormemente, ma sarà necessaria tantissima energia per la crescita. Riuscirà ad affermarsi anche qui uno sviluppo ecosostenibile? Sesto, le decisioni politiche sono profondamente influenzate dal consenso elettorale, soprattutto per i problemi immediati, mentre i rischi climatici sono eventi lontani nel tempo. Promesse verbali ce ne sono tante, ma vere politiche di riconversione decisive a scapito di provvedimenti urgenti sono difficili da prendere e da accettare. Settimo, mancano quelle forti motivazioni che sarebbero indispensabili per affrontare davvero i problemi. Per questo si è fatto troppo poco e troppo tardi. Insomma, quando si parla di ambiente e di rischi climatici bisogna sempre tenere presente queste realtà, che frenano pesantemente le soluzioni che tutti auspichiamo e gli ideali che tutti coltiviamo. Atmosfera e oceani, due strati sottilissimi. La Terra è un po' come un sistema vivente che reagisce a ogni variazione e a ogni perturbazione a cui è sottoposta. E così fa da miliardi di anni. In passato vi sono stati sconvolgimenti, per cause naturali, che hanno addirittura rischiato di far estinguere la vita. Quindi si tratta di un sistema molto sensibile, che non si può maltrattare senza pensare che non vi siano conseguenze. Tanto più che l'atmosfera, come anche gli oceani, se visti da vicino, sono in realtà strati sottilissimi e quindi particolarmente vulnerabili. La maggior parte della massa gassosa dell'atmosfera, infatti, è compresa nei primi 15 chilometri. È lì che sono concentrati i fenomeni meteorologici ed è lì che si trova la maggior parte dell'ossigeno. Già a 8.000 metri sull'Everest è difficile respirare. A mano che si sale, l'atmosfera si rarefà e oltre gli 80 km si dissolve gradualmente nello spazio. A 100 km d'altezza ci sono soltanto molecole sparse. Per capire cosa questo significhi, guardate un mappamondo. 100 km rappresentano all'incirca la distanza tra Roma e Civitavecchia, un tratto quasi indistinguibile. Ebbene, quello è lo spessore massimo della nostra atmosfera, un velo sottilissimo dunque. La stessa cosa si può dire dei mari. Personalmente me ne resi conto il giorno in cui pensai di far realizzare, dalla scenografia Rai, un plastico del Mediterraneo di 3,5 metri di larghezza, per mostrare i fondali, pieni di canyon e di vulcani dopo aver fatto scomparire l'acqua. A conti fatti, la profondità media del Mediterraneo in scala sarebbe stata solo di 1,5 millimetri, praticamente anche qui un velo, meno di una pozzanghera. Non è un caso che il Mediterraneo sia più volte evaporato, circa 6 milioni di anni fa, quando a causa dei movimenti dei continenti si chiuse lo stretto di Gibilterra e venne a mancare il contributo d'acqua dell'Atlantico. Insomma, l'atmosfera e i mari, che sono i nostri due preziosissimi motori del clima, sono beni fragili e sensibili e vanno difesi e tutelati, perché stiamo maltrattando anche il mare, e questo è ormai sotto gli occhi di tutti. Con l'inquinamento, con una pesca eccessiva e soprattutto manomettendo il meccanismo delle correnti che contribuiscono a regolare il clima. Gli oceani in profondità sono percorsi da serpentoni che viaggiano ovunque nel mondo. Ce n'è per esempio uno che si forma dalle acque fredde della Groenlandia, scende lentamente lungo l'Atlantico, gira intorno al Capo di Buona Speranza e risale poi verso l'Oceano Indiano. Noi non vediamo niente di quello che succede là sotto, ma gli oceani sono un po' come l'atmosfera, con strati di diversa temperatura e salinità, che tra le altre cose creano correnti ascensionali che dai fondali portano in superficie i materiali di base per concimare il plancton e rendere così possibile quella catena alimentare che è all'origine della pescosità. A proposito della plastica. E poi c'è la plastica. Qui non c'entrano niente i grandi sistemi naturali e la loro fragilità. Qui è solo questione di maleducazione, o peggio, di menefreghismo. Si sa benissimo da tempo che la plastica si decompone in tempi biblici e che buttarla in mare significa ridurre il mare a un immondezzaio. Eppure lo si fa impunemente da decenni, con conseguenze a volte sconcertanti, come le famose isole di plastica galleggianti. La plastica di per sé è stata una grande scoperta che ha permesso utilizzi versatili e innovativi, basta pensare agli impieghi medici e chirurgici, non facilmente sostituibili da altri materiali come vetro, gomma o metalli. Il problema è stato quello di non investire massicciamente per produrre plastiche biodegradabili. Oggi cominciano a esserci plastiche derivate dai vegetali e persino dal latte, ma occorrerà trovarne molte versioni per gli infiniti usi attuali. C'è però forse anche una promettente soluzione: decomporre i rifiuti plastici a livello molecolare e poi riciclarli per altri usi. Ci sono impianti che hanno cominciato a farlo con buoni risultati. Come sempre, se si investe in ricerca, qualche buona idea si trova. E questo è un altro problema, perché non lo si fa, malgrado tutti i rischi ambientali ben noti. Non si mette sul piatto della bilancia il contrappeso di tecnologie mirate ad attenuare le conseguenze di una crescita non compatibile. Un'Amazzonia liquida. Nel mare, del resto, non si butta solo la plastica, ma tanti veleni portati dai fiumi e provenienti da discariche industriali, dimenticando che il mare è la nostra principale fonte di ossigeno. Infatti, oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo è prodotto dalle minuscole alghe del plancton in superficie. È un'immensa distesa di microscopici vegetali, una specie di Amazzonia liquida, dove non solo la fotosintesi libera ossigeno, ma assorbe anche CO2, una macchina fondamentale per i nostri problemi climatici perché sequestra un terzo dell'anidride carbonica che produciamo. Cerchiamo di ricordarcene quando ci preoccupiamo giustamente delle deforestazioni in Amazzonia. Quelle del mare sono in realtà foreste molto più potenti, che vanno tutelate con estrema cura, anche perché è quel verde invisibile che ci consente di fare un respiro su due. E poi c'è il problema dell'acqua. Certo, i mari ne sono pieni, ma l'acqua dolce rappresenta soltanto il 2,5% dell'acqua del pianeta ed è quella che ci serve per tutte le nostre attività. L'8% di questa è utilizzata per gli usi domestici, il 22% per le produzioni industriali e ben il 70% per l'agricoltura. In tutti questi settori c'è tantissimo da risparmiare, per esempio riducendo le perdite lungo la rete di distribuzione. Secondo l'Istat, in media in Italia nel 2022 è andato perso un terzo, il 36,2% dell'acqua immessa negli acquedotti. E naturalmente diminuendo l'enorme quantità d'acqua oggi richiesta per produrre qualunque tipo di oggetto industriale. Una t-shirt, per esempio, richiede 600 litri d'acqua. Ma è soprattutto nell'agricoltura che occorre diminuire gli sprechi. La nuova agricoltura. La strategia è quella di produrre le stesse cose usando meno acqua, il cosiddetto fare di più con meno. Non solo aumentando le rese, ma ottimizzando l'uso dei terreni e diminuendo così l'impatto sull'ambiente. Oggi abbiamo a disposizione molte nuove tecnologie per realizzare questi obiettivi, in particolare quella che è stata definita l'agricoltura di precisione, che consiste nell'innaffiare e spargere pesticidi o diserbanti solo nei punti in cui è necessario e non a tappeto su tutta una superficie. Questo oggi è possibile grazie alle osservazioni dall'alto fatte con droni o satelliti. Ci sono società che offrono questo servizio, in modo da mappare le coltivazioni e sapere dove irrigare di più e dove di meno, e anche come dosare l'uso di fertilizzanti, eccetera. Ma non si potrebbe al contrario disporre di una maggior quantità di acqua dolce desalinizzando l'acqua del mare? Certo che si potrebbe fare, anzi si fa. Il problema è che richiede un'enorme quantità di energia. Lo possono fare in misura limitata paesi ricchi di petrolio, ma poveri di acqua come l'Arabia Saudita, dove grazie alla desalinizzazione dell'acqua marina sono stati realizzati addirittura alcuni ranch con tanto di pascoli e coltivazioni. Ma non è certo un modello esportabile su larga scala. Un'altra idea è di riutilizzare per usi agricoli le acque che escono dai depuratori, dopo essersi assicurati ovviamente che non contengano sostanze contaminanti. Alcune ricerche e sperimentazioni dell'Enea vanno proprio in questa direzione. Un altro problema che sta emergendo in agricoltura è quello di ridurre l'impatto sull'ambiente degli allevamenti animali, molto inquinanti e divoratori di risorse. Nei paesi sviluppati il consumo di carne sta continuamente aumentando, ma anche nei paesi in via di sviluppo sta cominciando un consumo che si prevede crescerà sempre più. Nel mondo ci sono già 1,5 miliardi di bovini. E intanto la popolazione del nostro pianeta continua ad aumentare. In proposito, si sta lavorando anche a una soluzione del tutto nuova, fabbricare la carne in laboratorio. Ci sono già esperimenti in proposito. Si tratta di far crescere cellule di bovini in liquidi di coltura. Queste cellule, crescendo su un supporto, si uniscono e il risultato finale dovrebbe essere una vera bistecca, con lo stesso gusto e consistenza di quella originale. Vedremo. L'energia. Arriviamo ora al punto centrale, quello dell'energia. Vale a dire come rendere compatibili crescita e ambiente, benessere e clima, cioè il diavolo e l'acqua santa. E quindi come sviluppare energie pulite o meno inquinanti, ridurre gli sprechi, aumentare l'efficienza e il risparmio, puntare su ricerca e innovazione tecnologica, eccetera. Anche per quanto riguarda l'energia, penso che la cosa più utile sia fare un discorso generale e non entrare nei dettagli tecnici delle singole fonti. Sia per la grande instabilità del settore, sia perché l'innovazione tecnologica può agire su rendimenti e costi, modificando il quadro in prospettiva. Basta guardare al passato. Nel 1973 un barile di petrolio costava $1, equivalente a 6-7 dollari attuali, cioè niente. I meno giovani ricordano la crisi del 1973, quando i produttori di petrolio fecero schizzare il prezzo a $10 al barile. In Italia ci fu un periodo di restrizioni drastiche, riscaldamento razionato, domeniche appiedate e programmi televisivi che finivano poco dopo le 22 di sera. Persino la diffusione della TV a colori fu rinviata in questa politica di risparmio. Da allora il prezzo del petrolio non ha fatto che aumentare, con oscillazioni varie, arrivando a superare i $100 al barile. È evidente che se il prezzo dell'energia sale diventa conveniente sfruttare nuove fonti che prima erano considerate proibitive per il loro costo di estrazione. E questo è il secondo elemento, l'impiego di nuove tecnologie competitive che permettono di raggiungere giacimenti mai sfruttati prima, come per esempio grandi piattaforme in mezzo ai mari per trivellare i fondali sempre più in profondità. O magari tornare su vecchi giacimenti per tirar fuori materiali residui che con il basso prezzo del petrolio non era conveniente estrarre. c'è da augurarsi che ciò avvenga anche con le fonti pulite. Più sale il prezzo dell'energia, più le fonti pulite diventano competitive e maggiore è l'incentivo a sviluppare nuove tecnologie adatte a produrle. Ma attualmente qual è la situazione? Di quanta energia pulita disponiamo? Nelle prossime pagine riassumo in modo telegrafico il panorama attuale, l'esistente e le sue potenzialità, naturalmente con le riserve di cui sopra. L'idroelettrico. L'energia idroelettrica in pratica è una forma di energia solare. Il sole fa evaporare l'acqua, le nubi scaricano la pioggia, si riempiono grandi bacini realizzati attraverso dighe e si sfrutta poi la caduta forzata dell'acqua per far girare delle turbine che azionano dei generatori e voilà. Il sistema funziona da solo, fornendo in continuazione elettricità senza consumare altra energia e senza produrre CO2. L'Italia è stata all'avanguardia già a fine 800 nell'utilizzare questa forma di energia, che è servita per dare inizio all'industrializzazione del paese e continua a essere una fonte importante perché tra impianti grandi e piccoli fornisce oggi il 15% di tutta l'energia di cui il nostro paese ha bisogno. Ma quanto potrà ancora svilupparsi? Non molto, purtroppo, sia perché le cadute da grandi altezze sono state per la maggior parte utilizzate, ma soprattutto perché le nostre valli sono diventate un'importante risorsa turistica ed è difficile pensare di installarvi grandi dighe, che tra l'altro non hanno buona fama dopo il disastro del Vajont, che ha provocato quasi 2.000 morti. Si potranno invece sfruttare i cosiddetti piccoli salti o l'acqua fluente, cioè la corrente naturale dei fiumi senza sbarramenti artificiali. E anche migliorare la resa del sistema pompando acqua in alto nei bacini grazie all'energia non utilizzata di impianti eolici o solari. Ma nell'insieme la produzione di energia idroelettrica in Italia non è aumentata da molti anni. Nel mondo, per contro, le possibilità di sviluppo dell'idroelettrico sono ancora notevoli, anche se non mancano le controindicazioni, perché si tratta di costruzioni molto costose, non realizzabili ovunque, anche per via dell'impatto ambientale. Ma il loro sviluppo certamente contribuirebbe in modo rilevante a ridurre le emissioni serra. Il geotermico. Anche qui è la natura a fornire energia gratis, per così dire. E anche la geotermia ha conosciuto i suoi impianti pioneristici in Italia, a Larderello, in Toscana, dove esistono condizioni speciali. Il mantello terrestre è particolarmente sottile e il magma incandescente, risalendo, trasforma in vapore le sacche di acqua e gas che incontra. Questo vapore può uscire a una pressione altissima, facendo così girare delle turbine che mettono in azione un generatore elettrico. Anche questa è un'energia a zero emissioni di CO2 e in teoria è una fonte sterminata. Il magma incandescente è un oceano immenso che ribolle sotto i nostri piedi. Il problema è che non è così facile da raggiungere e da domare. Ci sono problemi tecnici ma anche di costi. Non è un'energia in rapido sviluppo per ora, tantomeno in Italia. Tuttavia il calore può essere vantaggiosamente utilizzato quando è possibile per il riscaldamento domestico. Il moto ondoso. C'è un altro immenso motore disponibile in natura, quello delle onde. Anche questo, in teoria, è una grande fonte di energia gratuita e pulita. Ma come trasformarla in elettricità? Ci sono esperimenti anche in Italia all'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Una delle idee è quella di ancorare un apparato galleggiante a forma di mezzaluna e sfruttare il suo continuo beccheggio per produrre energia. Il sistema teoricamente funziona, ma le difficoltà non mancano, per esempio il continuo variare delle condizioni del mare, l'erosione, le tempeste. Non sembra essere un'energia destinata a risolvere i nostri problemi. Comunque si continua a sperimentare. L'altra idea è quella di sfruttare le correnti sottomarine, che in certi punti sono molto forti, come nello stretto di Messina. E poi ci sono le centrali maremotrici. Queste esistono già da molti anni e sfruttano il flusso e riflusso delle maree per riempire dei bacini e funzionare come le centrali idroelettriche. Ce n'è una in Francia, operativa da oltre mezzo secolo. Il problema è che occorre un notevole dislivello tra alta e bassa marea, di solito soltanto meno di un metro. Ci sono però situazioni particolari in cui il mare, infilandosi nelle coste e premendo, può far salire l'acqua sino a 20 metri d'altezza. Nella centrale francese di Saint-Malo il dislivello raggiunge i 13,5 metri. I limiti di questi impianti sono il costo elevato, la quantità di siti idonei e anche il problema della sedimentazione nei bacini. Le biomasse. Le biomasse sono in pratica tutti gli scarti e i rifiuti di origine vegetale, ma in parte anche animale, che possono essere bruciati generando calore, vapore, movimento, energia elettrica. In Italia l'energia da biomassa è molto inferiore a quella prodotta da altri paesi europei per l'opposizione delle popolazioni locali agli impianti di combustione. Un tempo le biomasse, soprattutto la legna, erano l'unica risorsa per riscaldare e cucinare, e ancora oggi è così nei paesi molto poveri, tant'è vero che poco meno del 90% del bilancio di questa risorsa è rappresentato dal legno. Ma fino a che punto si tratta di un'energia davvero rinnovabile? Bruciando, infatti, le biomasse producono CO2, quindi non sono un'energia pulita. Però è anche vero che crescendo assorbono CO2. Il ciclo, quindi, nel suo complesso dovrebbe pareggiare i conti. In realtà molti osservano che sono i tempi a non essere in equilibrio, perché secondo certi calcoli occorrono molti decenni, da 40 anni a oltre un secolo, dipende dal tipo di legno, per pareggiare i conti. Per questo si punta oggi ad alberi a crescita rapida, come i pioppi e persino le alghe. Al di là di tutto, far crescere alberi e piantarne ovunque possibile è comunque una priorità importante per la grande capacità che hanno di assorbire la famigerata CO2. L'idrogeno. L'idrogeno, bruciando, produce come scoria semplicemente acqua. Una meraviglia. Le auto a idrogeno in città non produrrebbero alcun inquinamento. In una città come Roma, i marmi di monumenti straordinari come la Colonna Traiana smetterebbero di deteriorarsi. E anche i polmoni di 4 milioni di esseri umani nel mondo, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità muoiono per l'inquinamento urbano, potrebbero respirare meglio. Esistono oggi vari punti critici per una reale diffusione dei motori a idrogeno, non ultime le infrastrutture capillari per i rifornimenti in viaggio, così come avviene per i distributori di benzina. Ma la vera difficoltà è la disponibilità di energia pulita per produrre grandi quantità di idrogeno senza generare CO2. Infatti l'idrogeno non esiste in natura, bisogna fabbricarlo. Paradossalmente questo gas è l'elemento più comune nell'universo. Il Sole è una palla enorme, composta soprattutto di idrogeno, mentre sulla Terra non esiste allo stato libero. È sempre legato ad altre molecole e bisogna quindi staccarlo, ma questo richiede energia. Fra l'altro, oggi la produzione industriale di idrogeno a partire dal metano emette moltissima anidride carbonica. Per ogni chilo di idrogeno ne vengono fuori 7 di CO2. Non sembra quindi una grande idea per il futuro. Si può però anche produrre idrogeno senza emettere gas serra, ricorrendo a fonti non inquinanti come l'eolico, il solare o anche il nucleare. L'eolico e il solare hanno oggi ancora difficoltà nello stoccaggio dell'energia e il surplus non utilizzato può servire per produrre idrogeno. Un idrogeno doppiamente pulito, il cosiddetto idrogeno verde. Eolico e solare ne sono quindi le madri ideali, ma quanta energia potranno produrre eolico e solare? L'eolico. Cominciamo dall'eolico. In questi ultimi anni l'energia del vento si è parecchio diffusa grazie alle nuove tecnologie che ne hanno aumentato la resa. Naturalmente se ne sono avvantaggiati i paesi con più vento e con spazi adeguati a installare dei veri e propri parchi eolici. L'Italia non è un paese particolarmente ventoso. Esiste una mappa dei venti che mostra le aree più adatte, zone montagnose e costiere. Ma il nostro è anche un paese densamente abitato e spesso i grandi parchi eolici non sono graditi, anche perché occorrono molte centinaia di torri per produrre l'equivalente di una centrale elettrica da 1000 MW. C'è però la possibilità di installare impianti eolici in mare ed è questa oggi una tecnologia in sviluppo. Come è noto, la Danimarca ha realizzato grandi parchi eolici nel Mare del Nord, traendone parecchia energia elettrica. Il Mare del Nord però ha il vantaggio di essere molto ventoso e di avere fondali bassi, e questo fa sì che i basamenti sottomarini delle torri eoliche possano essere costruiti più facilmente. In Italia i fondali del Tirreno, dove c'è più vento, sono profondi, mentre nell'Adriatico, che ha bassi fondali, c'è meno vento. Oggi però si cominciano a sviluppare nuove tecnologie per impianti galleggianti, che vengono semplicemente ancorati sui fondali con funi e catene. Molte grandi aziende stanno entrando nell'eolico e anche la dimensione delle torri sta crescendo in modo sorprendente. Esistono attualmente torri eoliche gigantesche, alte oltre 200 metri, come un grattacielo di 70 piani. Perché così grandi? Perché la velocità del vento cresce più si sale in alto e l'energia così prodotta aumenta rapidamente moltiplicando la resa dell'impianto. Anche aumentando la larghezza delle pale si ottiene lo stesso risultato. Quindi più energia a un costo inferiore, anche grazie a sistemi di controllo che rilevano la direzione del vento e orientano le pale nel modo giusto. Va però ricordato, a proposito dell'eolico, che si tratta di una fonte intermittente che produce più o meno energia a seconda della quantità e della durata del vento. Per questo si parla di potenza installata, intendendo la quantità massima che in teoria l'impianto potrebbe fornire, e di energia erogata, che è invece quella che realmente si ottiene a conti fatti. A volte si equivoca su questi termini e bisognerebbe sempre specificare a cosa ci si riferisce, perché la differenza è enorme. Dipende naturalmente dal tipo di impianti e dalla ventosità della zona, ma su 8.000 ore l'anno certi impianti forniscono energia soltanto per l'equivalente di 2.000 ore. Un altro equivoco è generato dal fatto che spesso viene detto che queste energie rappresentano già una percentuale non indifferente dell'energia elettrica che consumiamo, ed è vero, ma spesso si dimentica di dire che l'energia elettrica rappresenta solo un quinto circa dell'energia totale che consumiamo. Basta pensare alle centrali che funzionano a carbone, olio combustibile, metano, oltre ai trasporti, al riscaldamento domestico, eccetera. È un discorso che vale anche per il solare ed è importante tenerne conto, perché se vogliamo difenderci dai cambiamenti climatici, dobbiamo capire quanto contribuiscono davvero queste forme pulite nel bilancio totale. Il solare. La nostra stella ci invia in continuazione energia in grande quantità. È stato calcolato che in un'ora giunge dal Sole un'energia equivalente a quella di un intero anno di consumi energetici della Terra. Una quantità immensa. Ma è un'energia estremamente dispersa. Per esempio, un accendino acceso sotto il palmo della mano scotta immediatamente. Invece, se si espone per un giorno la mano al Sole, non succede niente. Questo significa che riuscire a catturare l'energia solare in grandi quantità non è semplice. Occorrono vaste superfici per riuscire a farlo in modo significativo. Le cose però stanno migliorando. Oggi il fotovoltaico è l'energia con il più ampio margine di riduzione dei costi e aumento dell'efficienza. Gli attuali pannelli convertono in elettricità tra il 15 e il 20% dell'energia della luce solare catturata, ma con nuovi materiali si è raggiunto un'efficienza record del 25,6%. Il fotovoltaico si presta anche a integrarsi con l'architettura. Ci sono tegole solari, pannelli per le facciate, vetri fotovoltaici. C'è anche qualche progetto fantascientifico per catturare grandi quantità di energia dal sole. Per esempio, enormi distese di pannelli fotovoltaici nel Sahara, dove il sole splende in continuazione in modo da produrre sul posto idrogeno verde e utilizzare per trasportarlo in Italia la rete di metanodotti già esistente. Non mancano però gli inconvenienti. Il vento, che potrebbe ricoprire di sabbia i pannelli fotovoltaici, ma anche l'instabilità politica di queste regioni. E il pericolo della dipendenza da un singolo fornitore, replicando i problemi che oggi ci sono con la Russia. Solare ed eolico sono comunque le due tecnologie sulle quali c'è oggi molta ricerca. Torniamo però alla domanda di fondo. Quante di queste tecnologie verranno poi applicate su larga scala? Se si guardano i dati, ci si rende conto che sia solare che eolico, pur essendo ancora fonti minoritarie, negli ultimi anni sono aumentati di molto in Italia e anche nel mondo la crescita è stata notevole. In Europa il 20% di tutta l'energia è prodotta con fonti rinnovabili. Nonostante questa crescita, il risultato finale è che il solare e l'eolico rappresentano ancora una piccola percentuale della produzione energetica totale del pianeta. 2,5% il solare e 2% l'eolico. Sono i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Se si uniscono insieme tutte le altre energie pulite, idroelettrico, geotermico, biomasse, eccetera, si arriva a poco più dell'11% sul totale dell'energia prodotta in tutto il pianeta. Per il 2030 si prevede che la quota delle rinnovabili potrà salire al 15%, una crescita notevole, tuttavia insufficiente a contenere sotto i 2 gradi l'aumento della temperatura terrestre, perché ciò significa che l'altro 85% è rappresentato dai combustibili fossili, con un piccolo contributo del nucleare. È vero che molti paesi si sono impegnati a ridurre le centrali a carbone, ma i più grandi consumatori di carbone al mondo come Cina, India e Stati Uniti, insieme ne utilizzano il 70%, per ora non sembrano essere così virtuosi. In Asia sono in costruzione o progettate quasi 50 nuove centrali a carbone. Mentre sullo sfondo c'è la crescita continua della popolazione mondiale che forse raggiungerà i 9,5 miliardi nel 2050, 2 miliardi più di oggi. Quanta altra energia consumeranno? E da quali fonti? Il risparmio energetico. Ma c'è un altro tipo di energia pulita, abbondante e subito disponibile a costo quasi zero, è il risparmio energetico. Sia passivo, cioè limitando gli sprechi, sia attivo, migliorando l'efficienza nel produrre energia e nel consumarla. Basta guardare di notte la Terra dallo spazio. Siamo proprio sicuri che siano necessarie tutte quelle luci visibili dall'orbita terrestre? Perché le insegne luminose e gli uffici devono restare accesi anche a notte fonda? Chi come me ha conosciuto gli obblighi dei risparmi energetici durante la Seconda Guerra Mondiale rimane colpito nel vedere tanti sprechi. All'epoca c'era una sola lampadina in ogni ambiente. In cucina la lampadina era inserita in una carrucola, andava su per illuminare dall'alto, scendeva giù per cucire o rammendare. Non c'era quasi riscaldamento, si andava a letto con la borsa dell'acqua calda. Il bagno caldo era una rarità e a volte a scuola si andava con il cappotto. Si indossavano abiti e scarpe fino all'usura, io ho usato abiti rivoltati di mio padre. E naturalmente niente auto o motorini, non c'era benzina, si viaggiava in carri bestiame. Anche la dieta era ridotta al minimo e niente andava sprecato. Quanta fame patita. Oggi non è più così, per fortuna, ma veramente potremmo, senza grandi sacrifici, ridurre gli sprechi di energia. Anche perché la tecnologia ci sta mettendo a disposizione macchine sempre più efficienti. Negli ultimi decenni è diminuito molto il consumo energetico degli elettrodomestici come scaldabagni, condizionatori, frigoriferi, lavastoviglie. Anche il consumo delle auto si è praticamente dimezzato dal 1975 a oggi. L'industria, dal canto suo, è diventata molto più efficiente energeticamente. Ci sono singoli imprenditori che si sono impegnati nelle nuove tecnologie del risparmio, ottenendo risultati eccellenti anche dal punto di vista economico. Uno di questi, nel giro di 10 anni, investendo 10 milioni nell'innovazione energetica, ha risparmiato 15 milioni in bollette. Come dire, salvare l'ambiente e guadagnarci sopra. Questo è tanto più importante quando il prezzo dell'energia sale alle stelle. Eppure tanti sistemi per risparmiare che si potrebbero realizzare hanno difficoltà ad affermarsi, per esempio una coibentazione vera degli edifici. Eppure esistono da tempo tecniche molto efficienti per evitare la dispersione di calore verso l'esterno. Basta andare in giro con una telecamera a infrarossi per rendersi conto della quantità di riscaldamento e di energia che va perduta attraverso le mura e le finestre. Già 30 anni fa esistevano case sperimentali a consumo quasi zero, che per le varie necessità quotidiane consumavano un'energia pari a quella di un asciugacapelli. Coibentare conviene, anche economicamente. C'è un esempio curioso, quello del grattacielo più famoso del mondo, l'Empire State Building. La sua ristrutturazione è cominciata nel 2010 e ha visto fra l'altro la sostituzione o l'ammodernamento delle 6.154 finestre, dell'impianto di illuminazione, degli ascensori e del sistema di riscaldamento e di condizionamento. Le emissioni di gas serra sono state tagliate del 38% e il costo energetico annuale è passato da 11 a 6 milioni e mezzo di dollari, con un risparmio di oltre 4 milioni di dollari l'anno. Ma ci sono molti altri modi per risparmiare energia, per esempio non esagerando con l'uso dei telefonini. Sapete quanta energia consumano? Una stima affidabile è che l'uso di internet e dei dispositivi elettronici rappresenti il 7% dei consumi di energia elettrica mondiali. Significa, secondo la stessa fonte, che il 2% delle emissioni di anidride carbonica dipendono dalla cosiddetta information technology. Ma ci sono anche aspetti positivi. Chi lavora da casa, evitando di andare in ufficio in auto, è probabile che consumi e inquini meno, stando al computer anziché spostarsi. È stato calcolato, per esempio, che un'ora di streaming di un video equivale a 55 grammi di anidride carbonica emessi nell'atmosfera, mentre percorrere un chilometro in auto equivale a 100 grammi. Ma sono calcoli molto azzardati. Il nucleare. E poi c'è il nucleare. È diventato quasi un tabù parlarne per tutti i gravi timori di radiazioni, di incidenti, di conservazione delle scorie. Attualmente però, con quello che sta succedendo nel campo energetico, molti tornano a proporre reattori di nuova generazione, con maggiori garanzie di sicurezza. Il nucleare ha certamente un vantaggio, quello di non produrre CO2 o altri gas serra. Proprio questo ha spinto la Commissione europea a proporre agli Stati membri di considerarlo un elemento utile nella fondamentale battaglia contro il cambiamento climatico. Non solo, ma ha il vantaggio di produrre elettricità senza quasi interruzione, contrariamente a quanto avviene con l'eolico e il solare. Per quanto riguarda la sicurezza, dicono i suoi sostenitori, se si escludono situazioni estreme molto rare come il disastro di Chernobyl, provocato da un folle esperimento non autorizzato, o di Fukushima, la centrale giapponese colpita da uno dei terremoti e conseguente tsunami più violenti mai registrati nella storia, con un solo morto di infarto, il nucleare è la forma di energia che ha provocato il minor numero di vittime, oltre ad aver evitato nell'arco di 50 anni di lanciare nell'atmosfera 64 miliardi di tonnellate di CO2, equivalente a circa 2 anni di emissioni mondiali al ritmo attuale. Tutti questi discorsi però non convincono buona parte dell'opinione pubblica, che teme non solo le centrali nucleari in quanto tali, ma anche i rischi connessi agli errori umani o a situazioni non prevedibili, compresa la conservazione delle scorie altamente tossiche che rimangono radioattive per secoli o millenni. Perché mai ci si dovrebbe impelagare in una forma di energia così insidiosa che richiede molta competenza e grande capacità di gestione? Saranno naturalmente i singoli governi a decidere se costruire oppure no nuove centrali nucleari. Attualmente comunque sono in costruzione nel mondo oltre 50 nuovi reattori, soprattutto in India, Cina e Russia, e un altro centinaio è in progettazione. Questa è la fotografia attuale. Ma ci sono novità in prospettiva per rendere il nucleare più accettabile. Si tratta delle cosiddette centrali di terza generazione avanzata, dotate di particolari sistemi di sicurezza. Se ne stanno progettando anche di piccole, da 300 MW anziché da 1000. Sono più facili da costruire e da gestire e vengono definite intrinsecamente sicure, nel senso che se qualcosa va storto, la centrale si arresta automaticamente senza che siano necessarie manovre o interventi umani. Inoltre, anche in caso di incidenti, l'impatto sarebbe molto minore, ma la quantità di scorie rimarrebbe quella delle centrali tradizionali. Sono in progetto anche mini reattori di poche decine di megawatt, adatti per piccole comunità isolate. Ce ne sono già in funzione in Canada. E poi si stanno progettando le centrali di quarta generazione, basate su una tecnologia molto diversa, che potrebbe risolvere vari problemi legati ai reattori tradizionali. Intanto quello del combustibile, cioè dell'uranio. L'uranio, infatti, è un minerale che viene estratto dalle miniere in vari paesi del mondo, ma non è infinito. Prima o poi inizierà a scarseggiare. Ci sono attualmente stime sui suoi tempi di esaurimento, ma è difficile fare calcoli attendibili. I reattori di quarta generazione, da questo punto di vista, rappresenterebbero una vera rivoluzione. Infatti, invece di usare l'uranio come combustibile, utilizzerebbero le scorie radioattive prodotte dai vecchi reattori, dopo averle trasformate in plutonio. In questo modo la reazione nucleare diventerebbe 100 volte più efficiente, senza produrre nuove scorie. È dagli anni 70 che si cerca di realizzare questo tipo di reattore e oggi molti nuovi modelli sono in fase di sviluppo. Anche l'ENEA sta lavorando a un progetto, ora già in fase avanzata. Inizialmente questi reattori saranno di piccole dimensioni. Quanto ai tempi per l'entrata in funzione dipenderanno dalle sperimentazioni in corso. Qualcuno pensa a una prospettiva di 7 anni per i primi prototipi, ma per gli impianti commerciali ci vorrà sicuramente più tempo, ma è tutto da vedere, anche per quanto riguarda le autorizzazioni e le decisioni dei singoli governi. La fusione nucleare. E infine c'è in prospettiva, ma non vicina, la fusione nucleare. Molti la ritengono la soluzione del futuro perché potrebbe fornire energia utilizzando come combustibile semplicemente l'acqua del mare, o meglio, il deuterio, un isotopo dell'idrogeno che nel mare si trova in abbondanza. Non solo, ma non produrrebbe quasi scorie radioattive. Una vera bacchetta magica? Sì, forse, ma che richiede una tecnologia complicatissima e anche tempi lunghi. Semplificando molto, si tratta di imitare il funzionamento di una stella, cioè di portare la temperatura del reattore a milioni di gradi e fondere in questo modo dei nuclei di idrogeno generando energia. Sono più di 50 anni che si lavora a questa tecnologia e si pensa che occorrerà ancora qualche decennio prima di poterne disporre veramente. Le ricerche vanno avanti bene, anche in Italia. In varie occasioni ne abbiamo parlato a Superquark. Il problema sono i tempi, perché è adesso che noi dobbiamo disinnescare il rischio climatico. Il cannibalismo energetico. Per concludere, c'è un concetto che è importante tenere sempre presente quando si parla di energia, di qualunque tipo, e cioè che per produrre energia occorre altra energia. È quello che è stato definito il cannibalismo energetico. Spesso infatti non ci rendiamo conto che i consumi energetici non sono soltanto quelli diretti. Questo vuol dire che nel primo periodo di funzionamento una centrale restituirà semplicemente l'energia che è costata per costruirla. Nel secondo periodo fornirà energia per costruire un'altra centrale, per far fronte ai bisogni crescenti. E solo nel terzo periodo il suo bilancio sarà attivo. Ma siccome una centrale invecchia in tempi non molto lunghi, richiederà poi altra energia per essere smantellata. Questo cannibalismo energetico esiste anche sotto varie altre forme. Un litro di benzina, per esempio, ha dietro di sé una lunga serie di consumi necessari per essere estratto, per essere trasportato, raffinato e distribuito. L'importante è che alla fine il suo bilancio sia comunque attivo. In conclusione, cosa si può dire del problema energetico? Come abbiamo visto, ci sono vari modi per diminuire l'inquinamento atmosferico da CO2, nuove tecnologie pulite, risparmi, efficienza energetica, eccetera. Ognuno con il suo contributo. Sarà sufficiente? E soprattutto, ci si impegnerà a sviluppare al massimo questi rimedi? L'esperienza del passato mostra che solo di fronte a gravi emergenze gli individui e i governi corrono ai ripari. Per ora, malgrado le tante parole, non c'è ancora quella percezione del pericolo che induca ad accettare misure più stringenti, perché il clima è indifferente alle promesse, agli amici, alle conferenze. Per lui conta solo la quantità di CO2 prodotta dal pianeta e che continua ad aumentare. Capitolo 10. Demografia. Nel 2008, insieme a Lorenzo Pinna, ho pubblicato un libro dal titolo provocatorio «Perché dobbiamo fare più figli?». Provocatorio perché l'idea più diffusa è che oggi, almeno a livello planetario, il vero problema sia la sovrappopolazione, con tutte le conseguenze che comporta sulle risorse e gli ecosistemi terrestri. Ed è sicuramente vero, ma anche il calo delle nascite, se troppo rapido, porta ugualmente gravi problemi al paese dove si verifica. Una diminuzione della popolazione va bene, un crollo no. In Italia stiamo assistendo a un crollo. Nel 2007 le nascite erano state 564.000 e le morti 570.000. Quindi era già in atto un calo della popolazione, seppur limitato e compensato dall'immigrazione. Nel 2019, l'anno prima della pandemia da Covid-19, che ha aggravato ancora di più la situazione, le nascite erano 420.000 e le morti 634.000. Nel 2021, con gli effetti della pandemia, le nascite sono state 399.000 e le morti 704.000, una diminuzione della popolazione italiana di 214.000 persone nel 2019 e addirittura di 305.000 nel 2021, cioè più degli abitanti di una città come Parma. Il drammatico problema del crollo demografico italiano è del resto noto da anni agli studiosi. Come fa capire molto bene un grafico che elabora dati Istat dal 1946 e Our World in Data, è almeno dagli anni 80, quando è stata varcata la soglia dei 2,1 figli per donna, che indica il limite al di sotto del quale la popolazione comincia a diminuire, che la tendenza è in atto. Il calo è stato inizialmente mascherato dall'arrivo degli immigrati e dalla loro maggiore fecondità, ma già nel 2007 la situazione si è fatta evidente. Ed era chiaro quello che sarebbe successo andando avanti, come al solito, senza rendersi conto della situazione e senza provare, nella misura del possibile, a correggere la tendenza. Un mazzo di carte. Prendete un mazzo di carte da gioco e posatelo sul tavolo. Chiedete a un amico di tagliare il mazzo e di dividerlo in due. Le 52 carte, una volta dimezzate, si ridurranno a 26. Fate tagliare una seconda volta, ne rimarranno 13. Dopo un terzo taglio, le carte si ridurranno a 6 o 7. In soli tre tagli, cioè, il mazzo è passato da 52 a 6 o 7 carte. Per le nuove generazioni italiane sta succedendo qualcosa del genere. A ogni ricambio generazionale, i neonati si stanno quasi dimezzando. In questi anni si è parlato soprattutto della sovrappopolazione nel mondo e dei rischi a essa connessi. Ed è vero, è una grave distorsione che pagheremo cara. Ma questa esplosione demografica ha avuto luogo nelle regioni più povere del pianeta, quelle che faranno salire a oltre 9 miliardi la popolazione mondiale nel 2050. Accanto a questo squilibrio ve n'è un altro di segno opposto che si sta verificando nei paesi sviluppati e in particolare in Italia: l'eccesso di denatalità. L'Italia è fra i paesi al mondo dove nascono meno figli e questo sta portando a conseguenze traumatiche, perché in questo caso non si tratta più di una sana e auspicata riduzione della popolazione, ma anche qui di una distorsione pericolosa, soprattutto per la velocità con cui si verifica. Basta ripensare al grafico precedente per capire la velocità di questa caduta. Nel 1900 le donne italiane avevano in media 4,5 figli, nel 1930 3,5, nel 1977 2, nel 2000 solo 1,26 e nel 2018 1,21. Il dato attuale è in realtà di 1,29, ma comprende i figli delle donne immigrate, più prolifiche di quelle italiane. Al di là delle virgole, comunque, c'è un fatto evidente. Se da una coppia, cioè da due persone, nasce mediamente solo poco più di un figlio, a lungo andare i giovani si ridurranno velocemente e inesorabilmente. Il paradosso è che per ora la popolazione totale rimarrà in apparenza quasi uguale, perché il paese si sta popolando sempre più di anziani, di ultra-anziani e di immigrati. È per questo che, secondo l'opinione di molti autorevoli demografi, l'importanza di riprendere a fare più figli non ha nulla a che vedere con le trionfali politiche demografiche del ventennio o con il messaggio biblico «crescete e moltiplicatevi». Qui è successo proprio l'inverso e il problema oggi è quello di riequilibrare la nostra popolazione per affrontare un cambiamento senza precedenti. Le conseguenze. Telegraficamente, ecco le conseguenze di questa tendenza già in atto. Le persone in età lavorativa stanno diminuendo sempre più, mentre aumentano i pensionati, anche se la riforma delle pensioni del 2011 ha per il momento rallentato questa tendenza, anche se interventi più recenti ne hanno compromesso gli effetti, tornando ad anticipare l'età di pensionamento. 10 anni fa il rapporto tra pensionati e lavoratori era di 100 a 70, nel 2018 è stato di 100 a 68, un calo, ma la tendenza è nuovamente a crescere. Una tabella molto illuminante ci mostra l'andamento nel 2018 e quello previsto per il 2050 del rapporto fra lavoratori e pensionati. I numeri indicano i pensionati per ogni 100 lavoratori in vari paesi. OCSE 2018 41,79 pensionati ogni 100 lavoratori. 2050 58,25 pensionati ogni 100 lavoratori. Italia 2018 68,84 pensionati ogni 100 lavoratori, 2050 105,73 pensionati ogni 100 lavoratori. Ogni lavoratore quindi avrà a carico un pensionato o anche di più nel caso delle previsioni per l'Italia nel 2050, ma avrà a carico anche le spese sanitarie crescenti a causa dell'aumento degli anziani. Già oggi le persone di 65 anni e oltre costano 3 volte di più rispetto al resto della popolazione. I lavoratori di oggi e di domani devono versare dei contributi destinati a pagare una massa crescente di pensionati. Già oggi le casse della Previdenza sono in deficit. Cosa succederà quando saranno loro ad andare in pensione? L'esempio dei pensionati vale per molti altri campi. Infatti, se si assottiglia la fascia di produttori di reddito e di pagatori di tasse, nelle casse dello Stato affluiscono meno soldi per pagare i servizi sociali, la scuola, gli ospedali, la polizia, l'università, le infrastrutture, l'energia, eccetera. Ciò richiederà allora maggiore produzione. Da un lato più gente che lavori, dall'altro più efficienza in ogni settore produttivo, grazie in particolare a più innovazione, ricerca, nuove tecnologie, creatività competitiva, educazione, eccetera. Tutte cose in cui l'Italia è in grave ritardo. Riequilibrare l'attuale distorsione demografica procreando più figli potrebbe essere d'aiuto? Se l'Italia potesse avvicinarsi alle medie nord europee di 1,7-1,8, dicono i demografi, continuerebbe a perdere giovani e abitanti, ma la transizione potrebbe essere meno traumatica. Per questo occorrerebbe però, tra le altre cose, un maggior aiuto alle giovani coppie. In Europa questi aiuti rappresentano il 9% della spesa sociale, in Italia solo il 6%. Nel nostro paese si spende molto di più per le pensioni, il 60% della spesa sociale contro il 45% in Europa. In altre parole, se l'interesse del nostro paese è quello di raddrizzare la struttura della sua popolazione, l'aiuto alle giovani coppie va visto come un impiego produttivo, perché generare e allevare figli diventa un'operazione strategica di interesse generale. L'attuale rapido assottigliamento degli italiani in età lavorativa richiederà naturalmente l'ingresso di una massa crescente di extracomunitari, Già oggi sono circa 5,2 milioni, ma molti altri milioni si prevede saranno necessari nei prossimi anni. Si stima che nel 2050 potrebbero diventare 10 milioni e costituiranno il 20% della popolazione e il 25% dei lavoratori. Essi non riusciranno comunque a colmare il buco, anzi la voragine creata dalla diminuzione delle nascite. I demografi dell'ONU hanno calcolato che in Italia occorrerebbero addirittura 2 milioni di immigrati l'anno per compensare la perdita di giovani e mantenere inalterate le proporzioni tra le varie classi di età, come erano nel 1995. E inoltre, riusciranno questi immigrati a integrarsi? Riusciremo a farli integrare in modo soddisfacente? E i loro figli che nasceranno e cresceranno qui e avranno diritto di cittadinanza e di voto saranno e si sentiranno cittadini italiani a tutti gli effetti oppure degli esclusi? Verso un paese sconosciuto. Naturalmente si può anche decidere che le cose vadano bene così. Ci sono persino oggi libri che consigliano di non fare figli. Questa può effettivamente essere una scelta, comprensibile sul piano personale per chi ritiene di poter avere in questo modo una vita più libera e indipendente, con minori responsabilità. Altra cosa invece è vedere il problema dal punto di vista della società. In tal caso, se si ritiene che le cose vadano bene così come stanno andando, deve essere una scelta consapevole che faccia parte di un progetto che preveda come affrontare e risolvere i problemi che la denatalità comporta, compensando in qualche modo gli squilibri. Invece non è così. Si procede diritti a tutta velocità, senza una visione d'insieme e senza freni, verso un futuro che appare lontano, ma non lo è. Infatti, coloro che nascono oggi, nel 2035 saranno dei teenager e nel 2060 saranno dei quarantenni. I genitori e i nonni che ne hanno festeggiato recentemente la nascita, o il primo giorno di scuola o la prima comunione, dovrebbero essere consapevoli che questi figli e nipotini tanto amati si troveranno a vivere in un paese molto diverso da quello che loro hanno conosciuto. E oggi è troppo tardi per modificare queste curve di crescita. Su queste onde lunghe non si può più intervenire, sia in Africa, sia in Europa, sia in Italia. Coloro che sono già saliti sulla scala mobile della demografia, pochi o molti che siano, ormai sono in viaggio e continueranno a viaggiare per tutta la loro esistenza. È per questa stessa ragione che non si può fermare l'invecchiamento della popolazione. In Italia, per esempio, si possono già fare un po' di conti, in base agli individui che si trovano a vari livelli della scala mobile. Oggi gli ultra 65enni sono 13,8 milioni, nel 2050 saranno ben 19 milioni, mentre i giovani diminuiranno sempre più, e molto rapidamente. In Italia, come abbiamo visto, la fascia giovanile, da 0 a 25 anni, oggi è di 13,7 milioni e nel 2050 sarà di 12,6 milioni. Questa diminuzione naturalmente è collegata al fatto che se meno giovani salgono sulla scala mobile, meno figli nasceranno. Ci saranno quindi a mano sempre meno giovani e di conseguenza sempre meno figli nelle generazioni successive. Esistono in proposito delle proiezioni che riguardano la prossima generazione. Nell'ultimo anno, il 2021, in Italia, sono nati 399.000 bambini. Nel 2050 si prevede che nasceranno solo 355.000 italiani. Se fosse una specie in pericolo di estinzione, il WWF si sarebbe attivato. Un aereo in picchiata. Le coppie feconde possono dunque essere considerate come salvatrici della patria, o meglio come ammortizzatori di caduta, per una diminuzione della popolazione comunque inevitabile. Infatti anche gli altri paesi europei stanno perdendo giovani e appesantendosi di anziani, e quindi anche le loro popolazioni sono destinate a diminuire sempre più. Ma la loro linea di discesa è più morbida. È come un aereo che in atterraggio cerca di mantenere un angolo di discesa adatto anziché scendere in picchiata come avviene per l'Italia. In altre parole, fare più figli in Italia non vorrebbe dire incrementare la popolazione che comunque continuerebbe a diminuire, ma quantomeno evitare un crollo troppo rapido che potrebbe essere traumatico. Questo perché si sta aprendo una divaricazione crescente tra chi lavora e chi non lavora. È un angolo d'atterraggio quasi da crash landing. Ed è dentro questa divaricazione che si inserisce la massa di immigrati che vediamo crescere in Italia. Una società industriale ha bisogno di forza lavoro e ha bisogno di persone che svolgano lavori che chi ha studiato non vuole più fare. Per continuare a far girare la ruota occorrono altre braccia e più persone che svolgano lavori domestici e di assistenza agli anziani. E sono i milioni di immigrati indispensabili per la nostra economia. Già oggi si calcola che essi producano il 6% del nostro PIL. Ma non basta importare braccia, occorre far crescere una società moderna e competitiva attraverso più produttività, ricerca, tecnologia, educazione, eccetera, come abbiamo ripetuto più volte in queste pagine. Conclusioni. Il futuro interessa poco? Arrivati alla fine del libro, come diceva qualche anno fa un noto e bravo giornalista televisivo, una domanda sorge spontanea. Il futuro interessa poco? Sulla console dei comandi non si contano le spie d'allarme che si sono accese e lampeggiano furiosamente. Ne abbiamo viste alcune come il crollo demografico, la mancanza di comprensione del ruolo di scienza e tecnologia, gli scarsi investimenti in ricerca, l'illusione che la politica produca ricchezza, la vulnerabilità a slogan e promesse insostenibili del tutto e subito, un'informazione dalla televisione ai giornali al web dominata troppo spesso dall'emotività di sangue, sesso e soldi, la striminzita crescita della produttività, i cambiamenti climatici, il merito che non viene riconosciuto, le posizioni molto basse nelle classifiche internazionali che valutano l'attrattività di un paese per chi voglia investire, eccetera, eccetera. Eppure, nonostante gli allarmi che richiederebbero azioni molto rapide, non accade nulla o quasi. Tutto va avanti come al solito. Allora la risposta è che il futuro interessa poco. O meglio, interessa il futuro personale, quello della propria famiglia, dei propri figli. Infatti si investe nell'educazione dei figli perché abbiano un buon futuro. Si contrae un mutuo per l'acquisto della casa. Si fanno debiti per aprire e avviare un'attività commerciale. Ma sul futuro collettivo nessuno è disposto a spendere e a investire granché, per varie ragioni. Intanto perché il futuro è per definizione invisibile, non si sa con precisione cosa succederà, mentre il presente è sotto gli occhi di tutti, con i suoi problemi che non sono pochi. Quindi se c'è da spendere un euro, è meglio spenderlo per i problemi certi di oggi, che per quelli incerti di domani. C'è una parte di verità in questo ragionamento, ma è anche il ragionamento con il quale si favoriscono le crisi. È come in una partita a scacchi. Anche sulla scacchiera il futuro non è prevedibile, nessuno può sapere come si presenterà dopo 15 mosse. Un buon giocatore, però, sa che non deve lasciarsi tentare da un vantaggio immediato, deve invece impostare le sue mosse per vincere la partita in prospettiva, disponendo i suoi pezzi nel modo migliore. C'è poi un'altra ragione, più tipicamente nostrana, ed è che la gente non si fida della classe politica. Ricordo che alcuni anni fa feci fare un'indagine da un istituto specializzato sulla disponibilità degli italiani a investire sul futuro per quanto riguardava i grandi problemi ambientali. Ne venne fuori un dato abbastanza sorprendente. Moltissime persone erano disposte a destinare una percentuale del proprio reddito per assicurarsi un ambiente migliore per sé e per i propri figli, così come ci si assicura contro gli incidenti automobilistici. Se non che non si fidavano di come sarebbero stati utilizzati e gestiti i loro soldi. Per riconoscersi in una comunità, in una casa comune, e quindi accettare dei sacrifici, occorre una fiducia che oggi si è smarrita. Peccato. Che si può dire allora al termine di questa lunga cavalcata? Beh, ognuno può trarne le conclusioni che vuole, ma alcune cose sembrano emergere. Il futuro può anche non interessare, ma in definitiva non esiste. Non è qualcosa di già scritto. Ci sono tanti futuri possibili. Dipende da quale si vuole scegliere attraverso i propri comportamenti personali e collettivi. Sta soltanto a noi dirigerci con la nostra intelligenza e lungimiranza o con la nostra miopia e brevimiranza verso un futuro migliore o peggiore per noi e per le generazioni che verranno. Il nostro paese ha bisogno di beni immateriali, cioè di conoscenze e di valori. Cose più difficili da ottenere che petrolio, corazzate o stazioni spaziali perché richiedono un cambiamento di mentalità, a dir poco rivoluzionario. Eppure si tratta tutto sommato di cose semplici, quasi banali. È ovvio che un paese oggi debba sviluppare in modo prioritario la sua intelligenza, il suo sapere, la sua inventiva. Ed è ovvio che per imboccare questa strada debba porre alla base della comunità nazionale certi valori, a cominciare dal merito, dalla lealtà, dalla correttezza. Questi beni immateriali sono trasversali a qualunque politica, rappresentano la vera ricchezza di una società, perché sono i motori del cambiamento e consentono di creare in continuazione risorse e di distribuirne i benefici. Peccato che il nostro paese navighi e si perda in altri labirinti. O non è mai troppo tardi? Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.